Sì, ma che ne è del sosia? Come se la cava di fatto il sosia a Teresina? Se la cava rispettando le consegne a puntino. È il sosia di un uomo che ti fa fuori un generale presidente senza maggiore emozione che se fosse un bue sulla piazza del mercato. Prima di partire, Pereira ha lasciato incombere una minaccia da pelle d'oca. Non sarò mai lontano. Il sosia evita di pensare. Pensare è un'operazione complessa nella sua posizione. Ha l'ordine di farsi passare per un altro senza essere tentato di prendersi per lui. Altrimenti Cianuro ha afferrato la lezione. E ciò a dispetto degli onori che gli sono tributati, del cerimoniale che lo accompagna, del rispetto che gli viene dimostrato, del timore che ispira e dell'amore che suscita. Il ritratto di Pereira su tutti i muri, nelle case, non è il suo, ma lui si vede ovunque nell'altro. Il sosia è tutto meno che se stesso, ma questo nulla si è insinuato in una maiuscola. Appena ci pensa, gli vengono le vertigini. E poi, siccome mente a tutti, dubita di chiunque. È possibile che mi credano? È possibile che mi prendano per Pereira? Il popolo, al limite, il popolo crede a quello che gli mostrano da lontano, il popolo adora e uccide solo immagini, ma Edoardo Rist, l'amico d'infanzia, o il vescovo, o il padre, chi vedono in me? È possibile che un padre e un da ponte dica a chi non è suo figlio: sei la gloria del mio sangue? È davvero possibile? Anche con la somiglianza? No, quei tre sono al corrente. Pereira è nell'occhio del padre, dell'amico, del padrino, forse è persino nell'occhio della venditrice di serpenti. Pereira non è lontano, Pereira è ovunque, compreso in me stesso, nascosto, in attesa del mio primo passo falso. A questo pensa il sosia ogni volta che pensa. Da ciò la sua decisione di non pensare più, di attenersi alla sua parte affinché gli spettatori non escano dalla loro. La politica, gli aveva detto Pereira, è il paradosso dello spettatore. Il sosia non era certo di aver capito, ma aveva sentito che in quella frase era racchiusa una verità da cui dipendeva la sua vita. Quindi recitò la sua parte alla perfezione. È una parte predefinita e gravida di silenzio. Quando il sosia non è intento a imparare gli innumerevoli discorsi di Pereira, li pronuncia. E quando non è intento a rivolgersi al popolo, si impone di ascoltarlo. Ogni sera, all'ora in cui il sole cala come un verdetto, il sosia presta il proprio orecchio agli umili, seduto ai piedi di un albero corallo. «Fa come mio padre», gli aveva ordinato Pereira. «Ascoltali a ore fisse, metti nel tuo sguardo l'umanità necessaria e taci. Per far capire che il colloquio è finito, limitati a dire: ti ho ascoltato, e passa al seguente». «È tutto?» aveva domandato il sosia. «Ed è una rivoluzione», aveva assentito Pereira. «Nessuno li ha mai ascoltati. Gli ci vorranno 3 generazioni per chiedere di più. A quell'epoca né tu né io saremo più in grado di ascoltare chi che sia». Tanto il sosia ama lanciare alla folla i discorsi di Pereira e vedere gli sguardi accendersi ai bagliori della sua sincerità, tanto detesta quegli appuntamenti con le geremie di vespertine. Difficile avere l'aria di ascoltare quando non si ascolta veramente. Non addormentarsi, non spazientirsi, non contare il numero di quelli che restano nella fila, non pensare al menù della cena, non cedere alla voglia di una birretta di banana, resistere al fascino delle donne. Sono un presidente casto. Non grattarsi, controllare la vescica, dare l'impressione di essere totalmente presenti quando si vorrebbe essere dove, in realtà? Dove avrebbe voluto trovarsi anziché lì? Evitare a tutti i costi di domandarselo. Ascoltare ognuno come fosse l'unico a lamentarsi. Madre di Dio, quanti sono in questa cazzo di fila? E ascoltarlo come se fosse l'unico orecchio possibile, più orecchio del ventre di una madre, più orecchio del Padre Eterno nell'ora cruciale. «Dai», Ascoltami come se io avessi solo il tuo orecchio al mondo.